neanche di loro, per dire, con questa antenna che metterai un pezzo di vino, però grazie a Dio sta funzionando. In 20 metri ancora va bene, non c'è attività, infatti mi ha detto anche a Marco, è tutto spento. In 10 metri invece niente, non va, non vende, bisogna ottimizzarla, mi ha detto Marco. Di nuovo a te Luca. Mi ha messo segnato i caffetti, così la prossima volta che lo smonto, allora un attimo mi attacco i pezzi di nastro, quello combatto, dai, così la prossima volta vado a colpo sicuro. Di cosa sta parlando? Fu uno schemino, come ti ho detto io, e le colleghi sempre così, perché vuole collegato come ti ho detto io. Almeno hai le stazionarie e vatte di tutto il complessivo, capito? Ma di cosa state parlando? Perché aveva sbagliato, aveva messo praticamente il rosmetro tra il lineare e l'apparecchio, invece no, deve essere diretto all'antenna il rosmetro. E certo che sì. Vi faccio schiatta! E mi ha mangiato. Pare tu con quell'antennina di gomma. Vi faccio scillucci di fora. Mia, adesso mi faccio un pezzo di filo come Roberto e ti passo da sole parti. Gappa, gappa. Mi era appena piccola, sto usando. Metti le accoppiate che fai danno. Già lo sappiamo che c'è la storm. L'hai vista la novantenna andata lì con la Grazioli con lineare? No, negativo. Guardati quell'antenna, sono due antenne in uno, sono una 5 ottavi più una a mezz'onda, collegate insieme, antenna a quasi 10 metri di antenna, non c'è antenna paragonabile per la 27 con le prestazioni di quella, e c'è un video che dura 15-20 minuti, ti spiega tutto, ti fa tutte le possibilità dell'antenna, da un quarto d'onda sino a mezz'onda, tre quarti d'onda, 5 ottavi, ci sono tutti i parametri di coso, ti spiega tutto esattamente come radia l'antenna, eccetera, veramente un bel video, e poi alla fine ti fai confronti con quell'antenna, la paura, oh, 10 metri e passa è lunga quell'antenna. Perché è un'antenna una sopra l'altra, già lo so come funziona la collineare, sono così una sopra l'altra, anche le collineari bibanda che la via Maturiali sono un'antenna sopra l'altra. Tu esci un chissà roba. Guarda, è impressionante, tu devi vedere l'irradiazione, soprattutto per lunghe distanze, perché è molto basso il coso, il fascio di radiazione è molto basso, nelle lunghissime distanze ammazza tutti, proprio non c'è confronto, e c'erano tutti i grafici fatti col computer, le simulazioni, ma impressionante, uno che c'ha spazio con quell'antenna la devi sollevare un pochettino, perché ci vuole anche un bel palo, qui c'è 10 metri di antenna, è un'antenna collineare, con due antenne in uno, fatte sovrapposte, ma cavolo, già come costruzione, vabbè, bisogna stare attenti in zone di vento, secondo me si tronca in due con l'antenna, però è una bestia. Io ho un dipolo multibanda, con quello lì il povero Salvatore ha fatto la lista dei nominativi e li chiamava per nominativo, perché tutti volevano parlare con lui e volevano collegare la Sardegna. Guarda, la Sardegna è molto ambita, non lo sta dicendo Marco, perché siamo pochi, e come per esempio quando ti colleghi un'isola, ti posso dire, l'isola tropicale, cose del genere, dove ci sono pochi radioamatori, non è facile collegarla, non dico in Europa, quelli che sono lontano nelle altre parti, in Australia, in Sud America, cose del genere, collegare la Sardegna per loro non è semplicissimo, è come per dire tu quando ti colleghi, ti posso dire, le isole Samoa, non lo so, le isole della Malesia, per dire, ci sono pochi radioamatori, per cui non è che siano tutti impegnati, per dire, come quando sentiamo la Spagna, ce ne sono centinaia tutte le ore del giorno, della notte le senti, ed è molto ambita la Sardegna. Infatti è per quello che te lo stavo dicendo, la Sardegna è molto ambita, non è sempre che la collegano, e quindi quando loro sentono l'indicativo della Sardegna si buttano a pesce. Ieri c'era questo del Giappone, subito come ha chiamato mi ha subito risposto, sto qua. Parlava appena italiano, forse non lo so per quale motivo si è arrangiato. Oh signori, io vi devo lasciare che devo andare a mangiare, dai, saluto Natalino, Antonio, Luca e tutti gli eventuali amici qua in ascolto, devo andare a mangiare, ciao ciao, buon rete da parte mia. Ciao, buon proseguo, buon pranzo, vabbè, avanti Luca. Sì, ciao Robe, buon pranzo, anche io ho buonate da fiori, dai, non riesco a segnarmi, vai, dopo faccio il disegnino, poi non mi incatta, la felice di gabuto. Tanto se lo lasciamo a posto, sì, tutto a posto, capo, avanti a due. K, ciao Roberto, ci sentiamo alle prossimine, ciao ciao. Ah, io la faccia vostra, ho già pranzato, eh. Che mangiato hai, Natali? Alla grande, schigioneddoso. Cappa, rimane mio, c'era molto lavoro, c'era perché mi sono dovuto fare le mie e quelle di un altro. Siamo andati con un amico mio a Bandiera Gialla, a un'ambasciata di Gigione, poi a 10 euro, Gigione, una, poi una cotoletta, una panna cotta e qualche altra cosa, acqua, a 10 euro, va bene? Sì, ci ho mangiato anch'io lì quando facevo il corriere. Molte volte non c'era tempo di andare a pranzo e andavi lì. Cavolo, buona la roba pure, molto buona. Ehi, capa, self-service. Capa, ma così si può mangiare, ma poi già li conosco, è tutta roba buona, eh. Ehi, capa, ho mangiato anch'io lì a Bandiera Gialla. Capa, capa, dico che ho mangiato bene, mi sono pure gribato, ma niente. Ah, io mi poco fa ho mangiato... Ho fatto delle polpette più il i gnocchi al sugo di brutto. E allora no, pure io già li faccio, già una salsiccia. Volare viso. Cappa, quando è già li faccio pure io. E beh, Luca Luca. Che ne ha fatto? Luca! Se n'è scappato a pranzo quello. Avanti, chi è che fischia? E beh, Antonio! Ehi, ma che sei, Franco? No, Tino, buongiorno! Ehi, buongiorno, dove sei? In camper sono, vai! Ehi, cappa, che dove sei? Si sente qua! Alghi! Santiago 7, Radio 5, bene mi senti? Sì, ma non ti posso dare controllo, ti sento basso, ma già ti ascolto. Cappa, non ti preoccupare, non ti preoccupare. Cappa, Natali, lo senti a Tino? Sì, signore, ciao Tino, buona domenica. Ciao, altrettanto, adesso ho entrato un pochino, guarda a vedere se si è cambiato. Alla grande arrivi qua Sassari, Va bene, dai, sono contento. Va bene, sono entrato a salutarvi perché vi ho sentito, dai. Cappa, ti, alla grande, adesso provo se mi arrivi con l'antenna piccola, prova per un passaggio. Sì, vabbè, sono aiutato, è così. Basso basso ti sento, l'antenna minore. Cappa. Io sentiamo 8 Radio 5 a Tino, lo sento. Aspetta, 8 va bene, dai. Va bene che adesso ce l'ho al campo, dai, ci sentiamo più tardi, ciao, divertitela. Cappa, ciao ciao T, e pure io, 7, appena più di 7, dai, va alla grande vatti. Ciao ciao T, buon proseguo, alle prossime. Ciao ciao a tutti, ciao. Ciao ciao, hai visto Alghero dice che... Visto lei, molte volte io ho difficoltà a sentire a Luciano, cioè a Giovanni, che è a Platamona e arrivo anche a Alghero. Ma no, io a Platamona già arrivo. A Giovanni ho difficoltà perché non ha una buona posizione, capito? Ma Alghero già arrivo, non ti preoccupare. E anche ho l'antenna capottata, già ci arrivo. Pensate quando metto l'antenna come si deve. Non è l'antenna capottata. Sì, e cos'è? È tutta gribata che sua antenna. Sorta, brutta e fatta male. Vabbè, già si può contare. E no che in inverno, ma la sorte è quando piove entra l'acqua. Bisogna scenderla e vulcanizzarla, quella lì se la vuoi utilizzare, bene. E già imbatte come antenna, non è che non imbatte, se è piazzata bene imbatte, perché Marcolino Condor ce l'ha e sta funzionando bene quella sua. La mia è tutta messa male, là. Pompa forte, tranquillo che pompa forte. Lui, sono tutti nuovi. pompa un bel forte con l'antenna. Quando la tolgo speriamo che ne scenda tutta intera, così almeno la possiamo aggiustare. Se tu ti metti quella là non hai più bisogno di quella. Infatti non me ne faccio nulla, però qualcuno che serve la possiamo dare. Gappa, se me la biglio me. Se me la scendiamo intatta, te la metti a posto, cioè devi vulcanizzare dove c'è la cosa, la come si chiama, la bobina, perché se entra qua lì te la manda in corto. Già lo so, già. Purtroppo Marco Scorpio ce l'aveva così e l'ha dovuta buttare via perché gli faceva lo stesso difetto mio. Ne ho buttato un'altra io di queste quando ce l'avevo piazzata in campagna, perché mi si è marcito l'attacco dell'antenna e me ne è sceso il cavo in terra. Ma cos'è il coso da pannello? Però si può cambiare. Già lo so, io l'ho buttata via e mi avevo piazzato la mantova. La mantova turbo andava male. Quella là l'ho rifatta, quella che c'ho in deposito, la Ringo. Io l'ho rifatto il coso nuovo, gli ho rifatto. Sì, appena per il stazionare da regolare ci sono. Ma adesso non ne dà più problemi. Infatti. A me in campagna era salsedine, non andava bene la turbo perché mi marciva le antenne per il semplice fatto che ne saliva la salsedine dal mare, capito? Col vento, e mi marcivano le antenne per quello. La turbo me l'ha tutta marcita, tre volte ne l'avevo scesa quell'antenna, alla fine l'ho buttata via. Quello già me lo ricordo. Ma quella là va bene secondo te ancora? La mantova 5 penso che vada bene, perché l'ora pulita e basta. Se l'hai isolata bene riesci a lavorarci bene, non ci sono problemi. Era tutta vulcanizzata, già era fatta bene come antenna. Nella tua intera si può recuperare. Penso di sì. È che qua è troppo pesante a mettere un'antenna così. Metto quella che ho comprato e almeno non c'ha né radiali e né nulla. E dovrebbe funzionare bene. Il problema è un peccato quella mantova, ma perché non ci andiamo un giorno, ne la faremmo? Io se ne vuoi fare da sì, è che tocca salire sul tetto, è un casino per scendermela, perché c'è il palo che è alto 12 metri, sono due spezzoni da 6 metri, capito? Bisogna mollare un bullone e ne scende il pezzo di 6 metri. Fino a terra si può dire. E poi bisogna mollare le staffe e togliere il palo. E a chi è l'altro per l'attarino? Andiamo. Ma tra l'altro se hai bisogno, io sto cucinando qua, non mi rispondo perché sto facendo roba, preparando il pranzo, là. Come si dice, se ti serve una mano già c'è anche Antonio, magari una domenica, la domenica ci viene meglio. Già lo so, appena decido di piazzarla, perché bisogna piazzarla da fuori, bisogna mettere tre scale per scendere quella lì. Ne faremo una tale. E poi ci montiamo quella là. Infatti, non la metto più, li metto le staffe così da terra, la mettiamo telescopicamente e va bene. Perché sennò è troppa fatica a piazzarla come è piazzata adesso. Gappa, facciamo così. Allora domenica ci organizziamo e scendiamo in terra. E via, piano piano. E infatti. E piazziamo la Game Master. Cava, tanto a piazzarla ci vuole poco, è già segnato dove devo mettere i cosi. L'ho già segnata l'antenna. E quindi e telescopica, ci mettiamo molto poco a piazzare. Me l'ho detto che non vogliamo fare molto le fascette, se no si spacca. Già lo so. Scappa. No, ma sinceramente non mi va. Preferisco usare questa che sto usando. Vabbè. Io la metto 3 metri più in alto di come adesso, a vedere se pompa d'acqua. Cappa, io aspetto quella che mi ha aggiustato, se riesco a regolarli bene le stazionarie, la metto col palo a 4 metri, ho aiutato a Donisa i padri. Infatti, quella lì te la regoli e poi ci metti il palo più alto, tiri sul palo e via. Cappa, come si dice, è un'antenna che pompa un bel, cioè, non so quanto gli arrivavo, adesso go in basso mi quel deposito, che la stavo tarando, la stavo mettendo a posto, gli arrivavo 9.20 a Lucca al Monte, mi dà un po' come. Già è lontano da lì. È lontano, ci sono i palazzi, ma non c'è tanto bomba. Figurati quando la piazzi dove sei tu adesso, è più 4 metri più in alto, non lo so qui. Gappa, e da lì a Milano pompa forte davvero, tutta la zona della 131 a Biglia in pieno, di quel punto lì poi è una cosa micidiale. Già lo so già. Gappa, adesso speriamo di aver risolto e vediamo. Sono manco di piazzarla, cazzo, che è un piccardo, chi è? Avanti! Un bel basso ti sento, Cappa, non riesco a capire chi sei, c'è la radio molto bassa. Basso, mi sento. Già ti sento già, ma lo senti tu Natali? No, negativo. Cappa, sta arrivando 5 a me. Sta arrivando, è molto basso il segnale. E io ho 5 di QRM, vatti lo conto se lo puoi sentire lì. Gappa. Se non t'attrinzi non ci sentiamo molto bene. Ti sento io a malapena, vediamo se ti sente Luca. Luca, lo senti? A chi? A questo che stava parlando. Ma fai sento dopo il QRM, prima era a 0, che è avanti? No, c'ho QRM a 3 anche adesso, ma come fare proprio a 0? Sentivo bene la giovane di Platamona, ma bene veramente, adesso niente, c'ho QRM. Se non tassino sa trinza non lo sentiamo bene. Gappa. Ho capito cosa mi provoca, QRM, E cosa mi gioco, bro? Ho solo in televisione. Aspetto. Ecco, rientrato. Cambio. Avanti. Magari è Natalino, no, non sei Natalino. No, Antonio sono. Chi sei? Gianfranco mi hai detto. Giovanni sono, tu, ciao. E buona domenica a te e a chi è ascolto. Grazie. Sei un po' basso di radio, se saresti con la radio migliore ti ascoltassi ancora meglio, non so se Luca ti sente. Io lo sento, avanti Giovanni. 1, 2, 3, prova, buongiorno, buona domenica. Sì, segnale 5, come arriva qua. Gappa, no, qua sei Santiago 7. Giovanni, sicuramente un po' più di radio ti devi alzare, però già ti sento. Bene, mi senti tu lì a Platamona, o dove sei? Già va bene, esci bene. Gappa, dai. Sì, Santiago 7 comunque qua, ma abbastanza alla grande. Io lo sento che parla, ma è incomprensibile, capito? Non la radio. Ma io a secondo che chiedo, conferma, mi danno 9 e radio 5TV, poi dipende dalla posizione, boh, non se li comprendi nunca. Ma sicuramente la radio, se avessi usato una radio con molta più radio ti avremmo sentito benissimo, perché il segnale poi non è male, è solo la radio che è un po' bassa, capito? La radio è oltre 20 watt, è solo radio, Gappa. Uia, esci che metti in gocco, va, che mi gioco drummendi un po' caretto. Dai, ciao a tutti, ce la risentiamo, ciao ciao. Ciao Antu, anch'io vado a coricarmi un po'. Ciao Luca, ciao chi ci fosse in ascolto. Alfa 1 QRT. Ehi, ciao Antonio, ciao. Ciao Natalino, anch'io vado a pranzare, ci sentiamo più tardi, dai. Ciao. Ehi, ciao ciao, ce la risentiamo, ciao ciao. Ma tu c'è stasera da Giuseppe qua? Sì. E mi pare che posso un brinco, dai, venga a bermi una birretta, a stasera, ciao. Dai, ti porto con l'apparecchio. Metti una busta, ehi, ciao. Ehi, ciao ciao. Hola. Hola.